Dove sei? Sono qui a due passi. Sei tranquilla, sto arrivando. Ho con me tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il pane di frumento e le nuvole. La frutta d'argento come nelle favole che inventerò per te ogni sera, una cassetta di film di cartone, tutte le musiche di Ennio Morricone, una scala d'argento per le tue sfilate, calze dorate. Non avremo più sete, una bottiglia con dentro tutte le lacrime del mondo ed un biglietto del treno per far viaggiare il nostro destino, un chiodo per inchiodare le nostre cattive abitudini, il concerto di Brahms da ascoltare sotto i platani, una radio che trasmette sulle onde del mare, una macchina usata per andare a dormire. Aspetta, stanno suonando. Chi mai sarà? A quest'ora mi domando. Mi scusi, ci siamo persi. Potreste ospitarci, fagli entrare, che li facciamo assaggiare la nostra tavola, il nostro cuore. Il pane di frumento e le nuvole, la frutta d'argento come nelle favole. Inventerò per voi questa sera una cassetta di film di cartone. Ascolteremo Ennio Morricone, una scala d'argento per le vostre sfilate, calze dorate. Non avrete più sete, una bottiglia con dentro tutte le lacrime del mondo ed un biglietto del treno per far viaggiare il vostro destino, un chiodo per inchiodare le vostre cattive abitudini, il concerto di Brahms da ascoltare sotto i platani, una radio che trasmette sulle onde del mare, una macchina usata per andare a dormire. Ci avete accolto come principi, a braccia aperte. Lasciateci ringraziare, un piccolo dono vi vogliamo fare. È una pianta che cresce solo con l'amore, e qui siamo sicuri, crescerà molto bene. Scala d'argento per le salite, una strada dorata per le discese. non avremo più sete, né dentro né fuori. La pianta dell'amore è già piena di fiori.